Porque no estaba cansado. nuovissima. Biffi assurdo. Biffi assurdo. Coppia, coppia, coppia, coppia, coppia, coppia, coppia. Coppia, coppia, coppia, coppia, coppia, coppia, coppia. Florent, Florent, Renaud, Dohen, Rohen, Renaud, Doret, Egro, Oder, Ejot, Troje, Jodre. Incomodísima. Estoy incomodísima. Gracias. Thank you. vivo.